para sapere una locura. Morena, vieni a mio lato, di che vai fica parado. Quiero verme ser futuro, para sapere una locura. Morena, vieni a mio lato, di che vai fica parado.